Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 5. Lo sciame. La Rossa uscì dalla toilette del bar. Ci era rimasta il minimo indispensabile, arrovellandosi sulla prossima mossa da fare. Non voleva tornare al concerto. Continuava a pensare a quei due sguardi spiritati. Ispezionò con una rapida occhiata all'interno del locale, cercando l'amica, e le sfuggì un gemito. C'erano solo i soliti vecchi, rugosi, quelli che morivano un po' ogni giorno su ogni sedia, di ogni bar, di ogni paese. Un paio di loro le gettarono un umido sguardo lascivo. L'amica era sparita. Probabilmente, non appena lei si era chiusa in bagno, la nera aveva già alzato i tacchi. Si precipitò fuori dal bar, stufa di quella storia assurda. Corse verso l'ingresso del teatro sotto le luci livide dei lampioni. La biglietteria era già chiusa, la hall deserta. Non si udiva musica. Dove erano andati tutti? Con la mano appena posata sul portone d'ingresso avvertì un tremolio. Tirò lievemente a sé i battenti e dalla fessura uscì un ritmo che le ricordò una marcia militare. Questo rumore era più strascicato, non così marziale, ma l'origine era sicuramente la stessa e si stava avvicinando. Ritrasse la mano e fece appena in tempo a allontanarsi che la porta si spalancò e una massa di esseri silenziosi ne uscì, sciamando ordinatamente verso l'uscita. La Rossa indietreggiò verso la strada. Si aggrappò a un lampione con entrambe le mani mentre la fiumana di gente le premeva intorno. Le sembrava di essere in un formicaio, uno stelo d'erba nella corrente di insetti che le brulicavano attorno. La folla si spostava in silenzio. Respiravano allo stesso ritmo. Avevano tutti la stessa espressione ebete beata che la Rossa non riusciva a decifrare. Un'orda di zombie felici, pensò. E quel pensiero la terrorizzò. Quando finalmente anche l'ultimo zombie l'ebbe superata, vide le ultime file della colonna imboccare compatte la strada che portava alla collina. Non voleva sapere cosa sarebbe successo ora. Capiva comunque che lei e tutta la città lo avrebbero saputo presto. Si affrettò nella direzione opposta in cerca dell'amica. La nera intanto era stata inglobata dallo sciame. I suoi pensieri, i ricordi, gli affetti, i desideri erano stati spazzati via dal diluvio bollente di paradiso. La sua esistenza era giunta a compimento. Adesso l'unica esigenza era obbedire a qualunque cosa il senza nome avesse detto. Si guardò intorno. Nessuno parlava, nessuno ne aveva bisogno. Avevano un solo obiettivo che li accomunava: annunciare la venuta del senza nome. Adempiere alla sua volontà. Lo sciame risaliva i fianchi della collina. La luce della luna piena incorniciava la scena insolita, una falange perduta di un antico esercito che, ritrovatasi dopo secoli, cercava disciplinatamente di tornare al campo base. Il giorno seguente la Resi aveva un che di spettrale. Solitamente la domenica mattina era popolata di esseri in cerca di conforto e riparo dall'atmosfera di solitudine, inutilità e santità che avevano tutte le maledette domeniche. Quella mattina invece un'unica anima in pena vagava, solinga e disperata, il Marra. Questo esemplare, riconoscibile dalle fattezze e movenze da uccello, possiede negli occhi la gelida, efficiente crudeltà dei volatili. Il modo di inclinare la testa per guardare l'interlocutore appartiene inequivocabilmente al regno aviario. Incapace di passare più di alcuni minuti da solo, il Marra, sin dal primo risveglio, brama alla compagnia di qualcuno. A seconda del giorno e dell'umore, sceglie poi la persona adatta a sopportarlo per un'intera giornata. Spesso per tutta la giornata intona melodie dissepolte da qualche sua circonvoluzione cerebrale, provocando involontari accessi di ira incontrollata in chi se lo trova appiccicato. La Resi deserta era una scena che a sua memoria non si era mai verificata. Si aggirava incredulo, dardeggiando occhiate a destra e a manca. Per un attimo dubitò di essere nel posto giusto, inclinò la testa, con lo sguardo obliquo cercava una traccia, un odore, qualcosa, qualcuno abbastanza bipede da potersi definire umano. All'improvviso captò il borbottante scoppiettare di una lambretta che si avvicinava. Era Salvo. Ancora prima che il nero avesse spento il motore, gli stava correndo incontro, urlando: «Che fine hanno fatto tutti?» Il nero fermò la moto, fece scattare il cavalletto, si mise a sedere, comodo, gettando un'occhiata vacua lì intorno. Poi disse con un'alzata di spalle: «Saranno morti!» Se non aveva fumato, era intrattabile. «Che facciamo?» «Azzo vuoi fare? Aspettiamo! O andiamo da qualcuno?» borbottò tirando fuori le cartine. Il Marra balzò indietro di qualche passo appena vide il nero maneggiare le cartine. Una sola boccata di fumo di canna passivo era sufficiente a sprofondarlo in una folle paranoia. Il nero aveva iniziato a rollarsi con impegno la colazione quando si udirono numerose sirene della polizia avvicinarsi. Si ficcò in tasca la manciata di tabacco già mischiata all'additivo e le cartine stropicciate. Poi ci ripensò. Si cacciò le mani in tasca, tirò nuovamente fuori tutto e lo lanciò fra le sterpaglie spinose che crescevano fitte lì attorno. La prima volante della polizia spuntò a tutta velocità dalla curva. Era seguita da altre auto, tutte a sirene spiegate. Il nero e il Marra, pietrificati, cercarono disperatamente di assumere un'espressione da bravi ragazzi, riuscendo solo a sembrare due manichini lobotomizzati. Osservarono la carovana di auto avvicinarsi e poi sorpassarli senza degnarli di uno sguardo. «Vaffanculo, stronzi!» gli urlò dietro il nero appena fu sicuro che non avrebbero potuto sentirlo. Poi si gettò tra i rovi. «E adesso come cazzo lo ritrovo?» diceva, cercando di non toccare le spine affilate. L'ululato di altre sirene intanto si stava avvicinando. Una decina di auto dei carabinieri sgommò verso la stessa direzione dei loro colleghi poliziotti. Il trambusto gli fece cambiare idea. «Beh, questa non me la perdo!» Saltò sulla lambretta e fece cenno al Marra di salire. «Muoviti, andiamo a vedere!» Gettò un'ultima occhiata al cespuglio. «Bastardi loro e quel cazzo di sirene di merda!» Si accodò alla colonna spingendo la lambretta al massimo. «Cazzo, è la prima volta che siamo noi a inseguire i pulotti!» esclamò divertito. Ben presto giunsero in vista della collina e dello sciame. Da lontano la scena era davvero simile a una colonia di formiche intente a scalare un enorme formicaio. Lasciarono la lambretta ai piedi della strada che portava alla cima, si addentrarono tra la folla guardandosi attorno, increduli. Ovunque c'erano persone sedute, accovacciate a terra, sdraiate. Accanto a molte di loro c'era qualcuno, familiari o amici, occupati a cercare di stabilire invano una comunicazione. Ogni membro dello sciame recitava a bassa voce: «Il senza nome è arrivato, noi siamo del senza nome, preparatevi a ricevere la venuta del senza nome». Il mormorio riempiva l'aria come lo sbattere di milioni di ali di insetto. Era uno spettacolo incongruo e inverosimile, non si era mai visto niente di simile in quella terra senza Dio, devota solo al Dio denaro e al suo servo lavoro. Le sirene ululavano l'arrivo di altri mezzi di soccorso e già alcuni poliziotti stavano delimitando l'area con nastro bianco e rosso. Il nero aveva già identificato tra lo sciame alcune facce note, tutta gente che conosceva di vista e che mai avrebbe pensato che avesse alcunché di mistico nell'anima, tranne quando erano calati e vedevano il mondo attraverso le loro lenti rosa deformanti. «Guarda lì!» Il Marra indicò una macchia rossa che spiccava in mezzo alla folla. Non era possibile sbagliarsi. La tonalità dell'acconciatura della rossa non aveva eguali in tutta la riviera. Facendo attenzione a non calpestare parti dei corpi che ricoprivano il prato come un tappeto, riuscirono ad avvicinarsi. Appena li vide, la rossa domandò: Dov'è Anna? E scoppiò a piangere. Ci volle del tempo prima che si calmasse abbastanza da poter raccontare tutto senza singhiozzare troppo. Alla fine riuscì a tirare fuori la mole di angoscia che la opprimeva dalla sera prima e descrisse come meglio poté quello che aveva visto al concerto. Poi tacque, triste. Il Marra, con le sopracciglia aggrottate, fissava un punto nel vuoto. Il nero aveva il suo sguardo da fumato, inespressivo come la serranda di un negozio chiuso. Nessuno era in grado di fare commenti. Vagarono tra lo sciame, muti, finché videro il pescatore. Seduto su un tronco, mormorava, con lo sguardo rivolto al sole, il mantra del senza nome. Il nero si sedette accanto a lui. La litania, ripetuta e combinata con l'effetto del fumo, lo magnetizzò e non si mosse più di lì. Il Marra lanciava attorno occhiate torve e spaventate da poiana in gabbia. Avrebbe voluto volarsene via, ma Anna gli serrava la mano in una morbida morsa d'acciaio. Continuarono ad aggirarsi a lungo tra la folla che aumentava con il passare del tempo. Erano arrivati sulla cima della collina e avevano ormai perso le speranze, quando la rossa indicò un punto con un dito. «Anna!» strillò e si precipitò verso l'amica. La nera stava sussurrando inginocchiata sull'erba. I capelli appiccicati al viso umido di lacrime, un sorriso beato sulle labbra che ripetevano incessantemente la litania dell'annunciazione. La rossa singhiozzava e scuoteva l'amica. Il Marra ballonzolava da un piede all'altro, incapace di avere tregua. La domenica pomeriggio, nel finto pub inglese della città, si poteva trovare di tutto. Sghignazzanti adolescenti brufolosi, impiegati con famigliola al seguito intenti a controllare che i pupi non dessero segno di essere vivi fino alla fine del pomeriggio, uomini d'affari che nuotavano nelle pagine rosa del supplemento sportivo, perditempo qualunque, coppiette clandestine nascoste dietro i separé, e, naturalmente, i nostri due eroi che se la ridevano alla grande. Diossido li vide appena entrato. Il loro aspetto innocente e allegro lo irritò ancora di più. Si avvicinò al loro tavolo a passo pesante. «Bravi, bravi!» disse inarcando un sopracciglio. «Bel casino che avete messo su!» Mirko e Drago a quelle parole proruppero in uno scoppio di sghignazzi irrefrenabili. Drago lo guardò di sbiego. «Assomigli sempre più a mia madre!» Poi sogghignò e domandò insinuante. «Per favore, dimmi, di che stai parlando? A quale in particolare dei nostri casini ti riferisci?» Mirko esplose di nuovo in una risata, ma lo sguardo di Diossido lo bloccò congelandogli le labbra in una piega innaturale. «Ti senti furbo? Vi sentite furbi? Credete di riuscire a gestire questa cosa? Vi sfascerei quelle teste di cazzo contro il muro!» «Fottiti, Camillo!» lo bloccò Drago. «Non trattarmi da deficiente!» «Perché lo sei?» pensò Diossido. «Va bene, senti, non voglio fare prediche, tanto la testa ve la spaccherete da soli, però vedere i ragazzi ridotti a zombie non mi piace. Non dico che l'umanità non vi meriti, anzi, però, così, indiscriminatamente...» «E cosa dovremmo fare, allora, secondo te? Un giro di telefonate agli amici per dire «Non venite perché vi friggiamo il cervello!»» Mirko lo guardava serio. «Hai qualche proposta migliore? Presto nessuno potrà restarne fuori, vedrai. Tu potevi essere dei nostri invece di giocare a fare l'uomo saggio.» Drago sorrideva guardando la perplessità che si allargava sul viso di Diossido. Mirko e la sua sincera ingenuità erano sempre spiazzanti. «Che cazzo però, sinceramente non pensavo che...» «È proprio questo il tuo problema, tu pensi troppo», ruggì Drago. «Tu vuoi sempre essere il migliore, invece sei sempre fermo, bloccato da tutte le tue assurdità zen, la retta via e tutte quelle stronzate, e non cambierai. Mirko ha ragione, potevi essere dei nostri, Diossido.» Sbatté il bicchiere di birra sul tavolo e se ne andò senza altre parole. Mirko e Diossido si guardarono negli occhi. «Mi sa che lo hai fatto incazzare», ridacchiò Mirko. «Già, e sai a me cosa mi fa veramente incazzare? Che se al concerto ci fossi stato anche io, ora sarei inginocchiato a biascicare frasi senza senso». Mirko non sapeva cosa rispondere. Si limitò ad annuire con la testa e tuffò lo sguardo nel bicchiere ormai vuoto. «Ci si vede, ok?» Diossido si alzò e lo lasciò guardare il bicchiere vuoto. La luce del giorno lo fece sentire per un attimo come se fosse uscito da un brutto sogno, ma presto si tramutò in una pesante cappa abbagliante che gli opprimeva l'anima. Questo incubo non sarebbe svanito con la luce. Salì in macchina per liberarsi la mente guidando un po' senza meta. Non sapeva cosa fare, non sapeva neanche se avrebbe dovuto fare qualcosa o meno. Si diresse verso il mare, aveva bisogno di spazio per pensare. Per strada le sirene riempivano ancora le vie di dolorosi presagi. La voce si era sparsa. I parenti dei ragazzi della collina, gli amici, i curiosi, tutti si stavano dirigendo in massa verso il luogo del raduno dello sciame. Diossido vide arrivare decine di furgoni dipinti con le insegne del telegiornale e si sentì ancora più piccolo, schiacciato dagli eventi. Non era qualcosa a cui era abituato. La collina faticava a contenere tutta la gente che arrivava senza sosta. Era impossibile impedire l'accesso alle decine di stradine che la percorrevano. La polizia aveva sistemato alcuni posti di blocco, ma la gente sbucava da ogni cespuglio per curiosare. Erano arrivate anche le autorità, lo stesso commissario che aveva interrogato Drago e Mirko su quello che era successo al Secchione, guardava la scena reggendosi il mento con una mano. «Dobbiamo sgombrare la collina, prendere quei ragazzi e condurli in ospedale. E comunque dobbiamo riportare la situazione sotto controllo. Cristo, che casino pazzesco!» Ormai tutti i membri dello sciame erano stati raggiunti da familiari o amici che tentavano di riportarli a casa. La nera era in braccio al padre che si guardava attorno per trovare la via per uscire. Il marra seguiva docile la rossa, entrambi terrorizzati da ciò che vedevano. Un fiume di creature che agiva come una sola mente. Il nero, ancora seduto accanto al pescatore, si godeva tranquillo quella scena surreale come se fosse un film. Era affascinante osservare tutta quella gente che non aveva la minima idea di cosa stava succedendo e di quello che avrebbe dovuto fare. Gli faceva pensare a tutte le incongruenze e le contraddizioni della società cosiddetta civile che venivano a galla. Qualcosa era sfuggito al controllo e nessuno aveva la minima idea di che cosa fosse. Osservava le forze dell'ordine intralciarsi tra loro, dare e ricevere gli ordini più contraddittori, facendo sprofondare tutta la situazione ancora più giù, nel baratro del panico. Il commissario, che stava pensando pressappoco le stesse cose, si arrese. «Limitatevi a identificare tutti i catatonici e fateli accompagnare via. Li ritroveremo più tardi, quando la collina sarà libera e questo casino sarà rientrato. Fateli andare via tutti!» I membri dello sciame non opponevano resistenza. Si limitavano a salmodiare la loro nenia mentre venivano trascinati via, sorretti dai loro amici o familiari. Il nero si rese conto che non poteva lasciare l'amico da solo in quella situazione. Porse la mano al pescatore. Questi la prese e si alzò. Il nero stette un istante immobile. Si rese conto che non sapeva dove andare. Col passare delle ore, la realtà tornò a mostrare la sua faccia più rassicurante. La collina deserta non conservava più traccia dello sciame. Le indagini delle autorità non portavano da nessuna parte. I ragazzi furono interrogati dalle loro famiglie, dalla polizia, da innumerevoli giornalisti d'assalto che avevano fiutato la storia del giorno, ma tutto ciò che rivelarono fu la solita frase: «Il senza nome è arrivato, noi siamo del senza nome, preparatevi a ricevere la venuta del senza nome». Giorno dopo giorno il fatto fu sepolto dalle sempre nuove, banali, inevitabili tragedie quotidiane. La vita nella città poteva riprendere.